Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. The great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. This is the 11th Oscar and 28th nomination of the foreign language film as a regular category in 1956. Okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. And thank you to Roma and to Napoli and my personal great beauty Daniela, Anna e Carlo. Pensa che avevo capito Walking Dead, ma ero illuso, dico gli zombie con... Il film di Sorrentino, stupendo, infatti vedevo subito il parallelismo a questo mondo disabitato, deserto, attraversato soltanto da morti viventi. Invece no, mi hanno spiegato questa mattina, alludeva a un complesso. Giuseppe Sanzon. Buongiorno. No, però è complesso molto musicale. È molto bello quello che tu dici. È meglio. Perché il montatore Cristiano Travaglioli che dice che l'umanità della grande bellezza è già morta forse, ma è molto divertente nel rappresentarsi come viva. Quindi c'è forte questo cortocircuito funziona alla fine. Quindi era meglio che avesse detto qualcosa. Parlava di musica, dei Talking Heads, che sono un'ispirazione musicale, perché lì parte da dei pezzi musicali e elabora le scene, spesso partendo dalle suggestioni sonore. Vabbè, La grande bellezza ha vinto l'Oscar, lo sapevamo già da varie settimane, ci eravamo tutti preparati per parlarne questa mattina, già che aveva messo le mani avanti, ho letto Guglia Soncini, ha detto adesso ve la prenderete con tutti quelli che hanno detto che era un film inguardabile, direte rosicherete, rosiconi, già si preparava comunque, perché probabilmente, non lo so, non conosco bene il suo pensiero, ma era fra quelli che su questo film hanno storto la bocca, hanno detto che era un filmaccio, un filmone, che era cheap, che non è piaciuto. Adesso sì, in effetti faranno triplo salto mortale per stendere la lingua e prostrarsi di fronte al grande vincitore. Cosa posso dire dal mio punto di vista? A me il film piacque molto, non è che la certificazione dell'Oscar conferma o smentisce un gusto personale, a me fece orrore il film di Benigni, vinse lo stesso l'Oscar, sono felice che abbia vinto questo film. Come la vedete voi? Vi solleva la giornata, vi cambia la vita, vi fa piacere, vi soddisfa? Trovate dei punti singolari sul fatto che proprio in occasione della grande sceneggiata del sindaco Marino, blindo la città, chiudo la città, trasformo in una città di zombie in cui tutti andranno a piedi, poi ha avuto i suoi soldini, però oggi sono tutti a dire sì, ma questi cosa ci farà? Roma è terribile, Roma è uno schifo, Roma è una città decadente, ho letto pezzi questa mattina, la stazione Termini sente l'odore di urina dei mendicanti, boh, io lo sento dagli ultimi 30 anni che sono a Roma, ho sempre sentito quell'odore di stazione che è un odore misto di urina e da qualche tempo di kebab, di fritti, di cose varie. Beh, come la pensate? 800240024. Quando sono arrivato a Roma a 26 anni sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Dice direzione mette Cesacone, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo. Ve lo vedrete tutti poi domani sera su Canale 5 questo film, facendo un salto della quaglia, per la prima volta rimandano in onda un film il giorno dell'Oscar, così quelli delle sale cinematografiche erano già pronti a rispolverarlo, stanno lì tutti a rodersi i gomiti, ma io ho già il DVD da mesi in mano, quindi cosa cambia? Ecco, Jep Gambardella, il protagonista, noi sentimmo Servillo quando ne parlammo per l'esordio di questo film, questa è una scena fantastica, sono due mondi che si incrociano, Gambardella che passeggia nel Lungotevere, questa sua riflessione, la città che lui ha conquistato, è spugnata, si è mangiata viva può permettersi di pisciargli in testa, dall'altro della sua figura riconosciuta di nulla facente ma maestro della mondanità, e i due professionisti romani che corrono Lungotevere, parlano della partita e via dicendo. Te come la vedi invece, Giuseppe? Ma lui è un dandy alla Dudu La Capria che insomma vive in questa Roma interstiziale che appare come irreale, priva di traffico, sospesa in questa sorta di limbo, che però ha dei forti addentellati con la realtà, con questa umanità archetipica di Roma fatta Ma perché gli hanno dato l'Oscar, secondo te? Beh, di sicuro ha un impatto. Roma ha in sé una forza storica, anche d'impatto, legata a tutto il nostro passato e storico e cinematografico, quindi di sicuro ci sono degli addentellati forti, riconoscibili. Diciamo, la traccia omeopatica di Fellini c'è e è stata riconosciuta. C'è, ma questo non è un demerito, cioè, all'interno di questo passato su cui inserirsi, ci sono degli interstizi invece molto brillanti, molto taglienti, molto divertenti. Il personaggio è estremamente feroce nel confrontarsi fra il mondo sudaticcio e che ha trovato una sua condensazione semantica in queste feste con la musica di Raffaella Carrà remixata da Bob Sinclair. C'è questo estremo estetico di volgarità che infatti l'hanno resumata da Lavello per Sanremo, proprio perché era tutto un grande Fazio sapeva, come tutti sappiamo, che avrebbe vinto l'Oscar, quindi è stato il primo a ritirare fuori la Carrà, che aveva tirato fuori Sorrentino. Ma vedi la tua intuizione, come tornano i Walking Dead, è tutto, certo. è tutto un riesumare, perché l'Italia è un paese alla Romero, e il nostro Romero è stato Sorrentino, che però contrappone invece alle morte rovine qui sotto a Piazza Indipendenza, qui sotto la radio, hanno inumato la bellezza delle rovine, quelle che guarda Giuseppe Gambardella sporgendosi. Che giorni fa, per scavare per una fogna o dei cavi, non so di quale rete, è stato trovato una specie di fornetto romano, una strada romana, bellissimo, trapelava storia e mistero, ma chiaramente l'hanno chiuso subito, devono passare le macchine. Ecco, invece Giuseppe Gambardella, guardandole dal suo terrazzo, dal suo Olimpo, in cui distaccato c'è la Ferilli, che è uno dei personaggi del film, dice qua sembra Frascati, manco pare di star a Roma, guardando da lì, dall'alto, scrivendo per un giornale imprecisato, perché quale giornale oggi ti dà la quantità di soldi tale per poter scrivere e per poter vivere così, però comunque in realtà ha degli addentellati concreti, che guardando lì Roma dall'alto coglie anche degli istanti di purezza che lo commuovono. 800240024, cosa vi ispira l'assegnazione di questo Oscar dedicato a una città come Roma, città vilipesa, città odiata, città sempre al centro di polemiche, città che conoscono, apprezzano, con cui convivono solamente le persone che ci abitano, che ci vivono, che non sono mai romani? Gambardella non è romano, Gambardella rappresenta tutti noi che vengono da altre città, che arrivano, approdano in questa vecchia baldraccona che alla fine poi ti permette di vivere, ti permette di essere trasparente, ti ignora al punto tale che stai bene perché nessuno si accorge che tu esisti, che anche questo è un grande vantaggio. Questa generazione di giovani mi fa orrore, mantenuti per anni da questo stato, appena scoprono di avere due neuroni prendono e vanno a studiare, a lavorare in America, a Londra, fregandosene di chi li ha mantenuti. Beh, non hanno nessuna vocazione civile. Io da ragazza a lettere occupata grondavo vocazione civile. Tu grondavi vocazione civile? Sì, perché? Lasciamo perdere. Ma che ne sai tu? Tu in quegli anni eri a Napoli a fare il vitellone insieme alle ragazzette borghesi e a scrivere il tuo unico romanzetto. Una grande storia mi passava accanto, io non me ne accorgevo. Scusa, romanzetto? Ma ha segnato la storia della letteratura italiana, lo chiami romanzetto? Posso confermare che Geppe e la vocazione civile non sono mai andati tanto d'accordo. Lui era pigro, l'altra iperattiva. Ma dai, Romano, piantala di fare sempre le fuse al tuo idolo, sei patetico. L'apparato umano era un libro limitatissimo, frivolo e pretenziosetto come il suo titolo. E questo Geppe lo sa benissimo, e tant'è vero che ha evitato di scrivere altro. Scusa, e tu invece? Io ci ho provato a cambiare le cose con la letteratura. Sì, io ho scritto 11 romanzi di impegno civile, sì, e il libro sulla storia ufficiale del partito. Hai dimenticato la collaborazione ai testi di quei reali? Come si chiama? La fattoria delle ragazze si chiama. Guardate che l'esperienza della televisione è molto formativa e quando mi invitano io ci vado sempre. Io mi sporco le mani, io sperimento, provo, io non passo la vita a fare la snob. Senti un po', stai dicendo che un romanziere impegnato ha una sorta di vantaggio? E qua il diciamo, pezzo è lungo, dovremmo sentircelo tutto. A un certo punto Gambardella dice a questa, ma sta zitta tu. Ci abbiamo adesso, ci abbiamo il prossimo pezzo, continua su questo. No, continua su continuiamo questo. Continuiamo su questo, perché... sentiamo, no, certo, dopo, la distrugge, dico, sì, la sì, distrugge. Sì. Sentiamo un po' il pezzo della distruzione, perché qua è la chiave per cui questo film a molta gente ha fatto rodere veramente al fondo schiena. Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Stefa, l'hai voluto tu, eh? In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno. Molti invece ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi irrilevanti, lo dicono tutti. Questo non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse irrilevante, su questo ti do ragione. La tua storia con Eusebio. Ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti. Da anni pranzano tutti i giorni da Arnalda al Pandano, sotto all'attaccapanni, come due innamoratini sotto alla quercia. Lo sanno tutti e fate finta di nulla. L'educazione dei figli che tu condurresti con sacrificio minuto per minuto. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di Popper. I due figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere. Emiliano Morreale, buongiorno. Buongiorno. Conservatore della Cineteca Nazionale, collaboratore del Sole 24 Ore. Poi un giorno mi spieghi cosa fa il conservatore. Direbbe Longanesi, conservatore in un paese in cui non c'è nulla da conservare. Beh, almeno tu sei conservatore, nessuno può dire, ah, bieco conservatore. Dici, no, guardi, fai vedere il documento, io lo faccio per mestiere. Sì, sì. Meglio essere conservatori che progressisti. Sì. No, conversatori, lei ci ho fatto la gloria della mia vita. No, meglio essere conservatori che progressisti, come la protagonista vilipesa da Gambardella. Può essere questo il punto chiave per cui questo film è dispiaciuto a molte terrazze romane? Non lo so io, ma è dispiaciuto alle terrazze romane? No, è dispiaciuto tantissimo. Era luogo comune dire che facesse schifo, tutti dovevano dire che faceva schifo. Poi quando ha cominciato a fare successo di botteghino, la gente, sì, ma però in fondo così è stato, dai. Ma non so. Credo che in realtà la cosa che dalle reazioni che ho visto veniva visto come il film di un, come dire, di uno sguardo esterno, cosa che il film peraltro voleva. Certo, siccome si permette lui. È il film che viene, come dire, è come sempre sono i film su Roma, poi alla fine i romanzi su Roma, è il film di uno, di un non romano, è come era anche Fellini, come erano tutti quelli che si sono messi in testa di raccontare Roma come Gadda, che ne so, cioè è sempre raccontata, diventa un'ossessione dei pendolari, dei parvenu, dei nuovi arrivati, come anche quel bellissimo romanzo che era Occidente per principianti di Nicola La Gioia, diciamo lui immigrato di ultimissima generazione, insomma, e questo alle terrazze, ma ai balconi, insomma, ai sottoscala, diciamo, di chi poi Roma magari ci sta dentro, comunque vedersi rappresentato da fuori non è piacevole. Del resto poi la rappresentazione interna di queste cose non è che ci abbia provato nessuno, non è che ci ricordiamo delle cose di, che ne so, il film di Roberto D'Agostino o delle rappresentazioni Mutande pazze. Sì, non è che, come dire, il tentativo di autorappresentazione dall'interno. Beh, era un film profetico, perché Mutande pazze anticipò qualcosa che ancora non immaginavamo che esistesse, che poi fu chiarito in tutto l'oggettinismo, in tutti i rapporti tra mondo della produzione della RAI romana e, diciamo, addentellati pelosi intorno a lei. Fermati un attimo, Emiliano, devo mandare assolutamente le informazioni del traffico, poi continuiamo perché mi interessa capire quale sarà l'impatto dirompente fra la Roma, in questo momento viene rappresentata al peggio, magari in maniera immeritata, perché su di tutto il mondo vuole, sembra che Roma è andata con il piattino a chiedere i soldi per mantenere i suoi mucchi di spazzatura per strada, e questa Roma onirica che in fondo è fantastica, vorremmo tutti viverci, di Sorrentino. Melog, cronache meridiane. Che appunto si dà e si ritrae, si offre completamente con questo atteggiamento da flaneur alla vacuità di certe feste inutili, stupide, che girano su se stesse, e poi invece ritrova dei momenti di intimità sciacquandosi il viso all'alba in una passeggiata, una fontanella, una passeggiata magnifica di un'alba romana, cioè questo movimento tra il pubblico e l'intimo che racconta lo smarrimento anche, no? che vive lui e che forse viviamo anche noi. Era Tony Servillo, che avevamo sentito noi qualche tempo fa, proprio quando cominciamo a parlare del film, e ci raccontava quanto c'era in lui di Gambardella, perché in fondo anche lui viene in un'altra città, anche lui ha trovato Roma accoglienza, anche lui è all'apice di tutti i personaggi che ha rappresentato, il più sorrentiniano degli attori. Ha naturalmente la sua apoteosi, la foto che che stamattina vedo più sui giornali è lui, è Giuseppe Gambardella con in mano la statuetta, è in realtà il re della mondanità, Giuseppe Sansone. Certo, intervistando Umberto Contarello, che ha scritto il film insieme a Sorrentino, che è un altro non romano di Padova, diceva che lui e Paolo conservano uno sguardo nomade sulla città, cioè, ovvero lo stupore arrivando a Roma, cioè, non ci si abitua mai a Roma, diceva, e quindi ci si accampa, anche ci si è da tanti anni, si conserva questa sorta di osservazione stupita e stupefatta. Appunto il riferimento di Servillo è alla Capria, un po' a quella, alla Capria, che aveva scritto anche lui un romanzo come Ferito a morte, che invece nel film è l'apparato umano. A basso livello, ha scritto un ascoltatore: avete troncato un argomento serio di salute per lasciare spazio alle gigionate di Nicoletti. Cioè, c'è una prostata dolorante che si sta lamentando e tu la stai tartassando con queste tue letture. Dai, andiamo avanti. Roma comunque è l'unica città al mondo dove si è pienamente compiuto il marxismo. A Roma non puoi spiccare sugli altri per più di una settimana, poi ti riportano subito nell'aurea mediocritas. Roma è collettivismo puro. Collettivismo puro. Stefano, quando fa riga dice, lo sai che la massima ambizione di Fabare era di scrivere un romanzo sul niente? Se t'avessi conosciuto avrei avuto un grande libro, che peccato. Sei un misogino. Mettere sempre a scendere l'attenzione, Stefano, io non sono un misogino, sono un misantropo. Bravo, quando si odia bisogna essere massimamente ambizioso. Sono sciuro, tu sei uno sciuro. Emiliano Monreale, ricordo, conservatore della Cineteca Nazionale. Emiliano, certo, è anche gioco facile dargli contro a questi tipi umani che è facilissimo incontrare per Roma, la città è più prolifica da questo punto di vista di stronzaggine umana, e quindi è sin troppo facile poi rappresentarla e metterla di fronte alle sue responsabilità, al suo modo d'essere. Ma però tutto sommato come dire, la vocazione della commedia di costume, alla fine, chiamiamola così, non è che sia stata tantissimo perseguita dal cinema italiano. Sarà facile, ma insomma non è che lo si faccia tanto spesso, perché alla fine, anziché citare La Dolce Vita, come sempre, La Terrazza, per dire, no? Quel vecchio film. Allora, fermo lì, non ti muovere. I privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti. Non se ne può più di te, e anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale, si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste, però poverino è lui, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto egli, lui, questo inesorabile, fatemelo dire perché sennò schiatto, questo implacabile stronzo. Ma di chi parla? Di me! Di me! Ecco Emiliano, poi mi spieghi come mai il film di Scola dell'80, su questo film c'è stata una damnatio memoria, non lo conosce nessuno, in televisione è andato pochissimo, forse perché è rappresentata una Rai mortifera e via dicendo, in cui c'è l'ufficetto di Sergio Reggiani che viene ridimensionato man mano che scende il suo carisma all'interno dell'azienda. Ecco, di questo film si è parlato pochissimo, sono riusciti, diciamo, il potere delle terrazze è riuscito ad annientarlo. In realtà invece no, il film di Sorrentino vince l'Oscar, e che non hanno più potere le terrazze. Ma secondo me che quello era un momento in cui davvero il film di Scola andava controtempo, nel senso che era la tardissima commedia italiana, quella veramente nera che oggi si tende a rimuovere, si tende a dare l'idea di questa commedia italiana come commedia tutto sommato trionfante degli anni del boom, cosa che ovviamente non è mai stata. Il tardo Risi, il tardo Monicelli, lo Scola di quegli anni, Comencini, sono una serie di ritratti terrificanti, da un borghese piccolo alla Terrazza, sono dei film veramente tragici, come non riusciva a essere quasi nessun film in quegli anni lì, e quindi sono stati, anche quando avevano successo, oggi non ci tornano più i conti con quei film. È vero che La Terrazza è un film che forse andrebbe visto e rivisto oggi più che sarebbe apprezzato più di allora, un punto di non ritorno, di nichilismo. E d'altro lato credo che sia, ovviamente non so se l'abbia mai citato Sorrentino, ma credo che sia una delle fonti inevitabili della grande bellezza. La grande bellezza in più ha anche il fatto di essere un film di regia, che si sente, si mostra, eccetera, quindi a questo in più, per piacere agli americani amano i nostri registi vistosi, anche barocchi, amano La terrazza era molto teatrale, era La tutto, terrazza diciamo... è un film di sceneggiatore in fondo, è un film di grandi attori, di grande sceneggiatura, di grande misura, ma forse è questo che non tutto non campo e contro campo dentro una terrazza, la gente entra e esce. Loro amano Bertolucci, amano Tornatore, amano insomma il nostro cinema, se vogliamo, operistico. Cioè... Sentiamo Flavio, buongiorno, un ascoltatore. Che ha superato la barriera del terrore di parlare di qualcosa che non sia banalmente il quotidiano. Prego. Penso che il film si sia ispirato al più grande analista della vita romana, che è stato Ennio Flaiano, che se lo va a leggere troverà un sacco di personaggi dentro. Sì, c'è quest'altra radice flaianea, senz'altro, sicuramente, figuriamoci. Un altro non romano. Di Pescara, che è arrivato insomma, a osservare questa città. Come un alieno e la guardava. Vivere a Roma è un modo di perdere la vita, diceva Flaiano, appunto, Sorrentino l'ha citato fra le sue fonti assolute. Senti, tu invece cosa dici, Sanson? Il grande vuoto, diciamo il buco nero di questo film, se vogliamo proprio spaccare il capello, è la totale assenza, radicale assenza della politica, che in realtà era un elemento, è un'assenza che pesa molto, perché c'è tutto, c'è il clericalismo, c'è l'arrivismo, c'è il potere diciamo delle terrazze, ma non manca la politica, che è il collante essenziale. È una scelta, anche perché il film è smisurato e sarebbe durato ancora di più, è stato tagliato al montaggio, però forse io azzardo... Quindi c'è una versione ancora più extra large. È stato girato tantissimo, è stato forse più... Uscirà prima o poi, diciamo, come extra DVD. Forse come extra dei DVD, però a me viene da pensare che forse i politici sono già abbastanza automessi in scena, ossessivamente, già inzeppati nella società dello spettacolo, a punto tale che sia anche difficile prendere la misura della loro rappresentazione filmica. Beh, sarebbe stato abbastanza attuale. Sei d'accordo te, Emiliano, su questo? Ma distinguerli dal circo della grande bellezza sarebbe, come dire, difficile, forse anche pleonastico, nel senso che... Quindi erano mimetizzati, c'erano ma non si vedevano. Come si dice, magari c'erano in mezzo, però ormai come distinguere il politico dalla soubrette? In effetti questo, anche, ma dico visivamente, proprio drammaturgicamente. Poi tra l'altro non dimentichiamo che è un film sulla politica, ma sulla politica appunto come cosa del passato. Sorrentino l'aveva fatto dire il divo, ma appunto era un film che finiva con la fine della Prima Repubblica, cioè a quel punto comincia il pop, diciamo. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo aggiungere una cosa, a parte l'aspetto scenografico di Roma, che ovviamente è stupefacente, e Sorrentino lo riprende molto bene. In realtà io l'ho trovato essere un film su una generazione, la generazione dai 50 ai 60, 65. I ragazzi del 50, diciamo, degli anni 50. Sì, esatto. Ed è un film che definisce la disillusione e la fine di un passato, della gloria, di un passato glorioso che in realtà non lo è più. Vabbè, è un film che sancisce una totale eclissi generazionale. Questa è anche una lettura, probabilmente è giusto che, visto che abbiamo il nostro albore celebrato dalle Dolce Vite, la nostra fine, la nostra dipartita celebrata dalla grande bellezza. Moriamo in bellezza. Grazie Sanzonna, grazie Monreale.